Storie italiane. La bella e la bestia. C'era una volta, in una terra molto lontana, un ricco mercante e le sue tre bellissime figlie. La terza, però, era la più bella e saggia, e quindi la chiamavano Bella. Le sue sorelle, invece, erano gelose e meschine ed erano più interessate a spendere i soldi del padre. Bella sognava un bel principe che un giorno voleva sposare per andare a vivere con lui nel palazzo reale. Tutto procedeva bene nella vita e nei sogni di Bella. Ma un giorno il suo destino cambiò. A causa di una terribile tempesta, il padre perse tutte le sue navi e quindi tutti i suoi soldi. È tutto finito, cara. Non siamo più ricchi. Non preoccuparti, padre. Andrà tutto a posto. In un modo ne usciremo. Tu sei il mio unico bene. Io sono felice con te. Tutti i servitori lasciarono subito la casa a causa della povertà del commerciante. Bella si occupava della casa, mentre le sue due sorelle continuavano a lamentarsi della loro povertà. Bella pregava il buon Dio di riportare la felicità sul volto di suo padre. Un giorno il commerciante ricevette la notizia che una delle sue navi era approdata nel porto. «Ho una buona notizia! Una delle mie navi è arrivata al porto! Non saremo più poveri! Sto andando ora a vederla! Ditemi, cosa posso portare ad ognuna di voi?» «Voglio dei vestiti nuovi!» «Io voglio dei gioielli!» «E tu, cosa vuoi che ti porti, bambina mia?» «Io voglio soltanto che tu ritorni a casa presto, padre!» «Mia dolce bimba! Devi chiedermi quello che desideri di più!» «Allora, la rosa scarlatta, portamene soltanto una!» «Naturalmente, mia dolce bambina!» Con questa bella promessa, il commerciante si recò al porto. Quando raggiunse il porto, vide che la nave era completamente isolata e scoprì che tutto l'equipaggio era scappato con il carico che era rimasto. Con il cuore a pezzi, il commerciante ritornò verso casa e, immerso nei suoi pensieri, perse la strada di casa e si trovò in una fitta foresta. La neve cadeva copiosa, come se l'oceano fosse diventato neve, e il cavallo non era in grado di camminare a lungo. Così lo lasciò riposare sotto un albero. In lontananza vide alcune luci e andò verso di esse. Era un enorme e bellissimo palazzo che egli raggiunse. La porta, fatta di brillanti ed oro, era aperta. Sembrava molto strano che nel viale degli aranceti non fosse caduta la neve. «Oh, che bel posto è questo! Devo entrare nel palazzo e incontrare il re!» Il mercante entrò in una grande sala. Aspettò, si guardò intorno per vedere se arrivava qualcuno, ma dopo una lunga attesa non venne nessuno. «Salve! C'è qualcuno nel palazzo? C'è qualcuno?» C'era un tavolo da pranzo con un pasto pronto, dolci fragranti e frutta soave. «Forse posso servirmi da solo. Più tardi ringrazierò il padrone per la sua premurosa ospitalità, chiunque esso sia.» Impiegò un bel po' di tempo prima di finire il pasto. Dopo aver mangiato a sazietà, salì al piano di sopra e, aprendo la prima porta, vide una stanza con un bel letto pulito. «Mio Dio, sembra che abbia avuto buona fortuna!» Al mattino il mercante aprì gli occhi ad un nuovo luminoso giorno. Trovò degli abiti nuovi pronti per lui. Si preparò e scese in sala. La colazione era pronta in tavola. Latte, succo di frutta fresca e pane. Mangiò a sazietà e si alzò. «C'è qualcuno qui? Grazie per la sua ospitalità! Lei è così generoso! Sto andando adesso! Ciao! Quando uscì, il mercante vide così tante rose come non gli era mai capitato. Oh, la rosa scarlatta! Beh, posso prenderne una per la mia bella! Andò subito in giardino e vide una rosa. Appena la colse, udì un forte ringhio dietro di lui. Quando si girò, vide in piedi, di fronte a lui, un mostro alto, con gli occhi rossi pieni di sangue, denti e artigli affilati come lame. Chi ti ha detto di raccogliere le mie rose? Non era sufficiente che ti abbia dato riparo nel mio palazzo. Questo è il modo in cui mi dimostri gratitudine. La tua arroganza non deve restare impunita. No, mi risparmi, signore misericordioso! Sua maestà, so che mi ha dato riparo nel momento del bisogno, così ho pensato che non si sarebbe dispiaciuto se avessi preso una rosa per mia figlia. Perdonami, mio signore. Tua figlia? Allora, ho un'offerta per te che potrebbe salvarti la vita. Di che si tratta, mio signore? Sono pronto a fare qualsiasi cosa per voi. Le mie tre figlie in questo momento mi stanno aspettando. Tre figlie. Va bene. Porta una delle tue figlie in questo palazzo. La prenderò io e in cambio ti sarà concessa la libertà. Prometto, prometto. Sono sicuro che una di loro vorrà sicuramente venire da voi. Molto bene. Ti fornirò uno dei miei stalloni più veloci e ti do un mese per ritornare qui con tua figlia. Se lei viene qui per sempre, deve farlo volentieri. Non lavorerò ad altre condizioni. Se non si presenta dopo un mese, verrò a trovarti. Vai ora e prendi una rosa per tua figlia. Sebbene avesse inizialmente accettato tale proposta per salvare la sua vita, non pensava proprio che una delle sue figlie si sarebbe persuasa ad andare dalla bestia. Il povero commerciante, più morto che vivo, si incamminò. Il cavallo lo condusse a casa in pochissimo tempo. Le sue figlie, vedendolo, si precipitarono ad accoglierlo. Ciao, papà! Dammi il mio regalo! Dov'è il mio regalo, papà? Come stai, papà? Devi essere stanco. Ecco quello che mi hai chiesto di portare per te. E non sai cosa mi è costato. Raccontò delle sue navi e della bestia. È stata colpa tua. Perché gli hai chiesto di portarti i fiori? Sì, se avessi chiesto qualcos'altro, questo non sarebbe mai accaduto. Infatti, ho causato io questa disgrazia. Quindi tornerò con te, padre, per mantenere la tua promessa. Oh, bella! Mi dispiace condurti verso questo triste destino. Siccome ho provocato io tutto ciò, è giusto che debba essere io a pagare. Bella si dimostrò ferma nella sua decisione e incoraggiò il padre rassicurandolo. Torna a casa, Bella, non rovinare la tua vita. No, ce l'ho il coraggio per affrontare la situazione. Mentre parlavano, arrivò la notte. Con loro grande sorpresa, tutto il bosco si era illuminato come se l'intero universo la volesse accogliere. Oh, è incredibile! Presto giunsero presso il viale degli aranceti e videro che il castello illuminato brillava. Quando entrarono nella grande sala, trovarono un ardente focolare e la tavola riccamente imbandita con un delizioso pasto. Erano molto affamati dopo il lungo viaggio, così si servirono subito. Ma appena ebbero finito, udirono il rumore dei passi della bestia che si stava avvicinando. Buonasera, Bella! Buonasera, maestà! Allora, sei venuta volentieri? Sì. Rimarrai qui quando tuo padre se ne andrà? Sì. Torna al tuo cavallo. Ne troverai un altro riposato e caricato con bauli pieni di oro per te e le altre due figlie. Bella, addio! Mi mancherai tutti i giorni, cara! Oh, mi mancherai, papà! I cavalli partirono scomparendo in lontananza in un istante. Vai al piano di sopra a riposarti. Buonanotte. Buonanotte. La Bella aprì la prima porta trovando una camera arredata con gusto. Si stese sul letto e si addormentò subito. Al mattino, quando si alzò, alla sua specchiera trovò tutto quello che poteva desiderare. Nella grande sala trovò il pranzo pronto. E dopo si sedette comodamente su di un angolo del divano. Questa orribile bestia vorrà tenermi prigioniera per sempre? Come posso liberarmi da lui? Con questi pensieri si addormentò nuovamente. Arrivata la sera, udì la bestia arrivare. Buonasera, Bella. Buonasera. Mi ami, Bella? Vuoi sposarmi? Eh? Dimmi sì o no, senza paura. Oh, no! Dal momento che non lo farai, ti auguro buonanotte, Bella. Buonanotte. Bella fu contenta che il suo rifiuto non lo avesse urtato. Tutte le sere, dopo la cena, la bestia arrivava da lei e di nuovo, come la prima sera, le chiese: Bella, vuoi sposarmi? E quando disse no, no, la bestia andò via triste. Con il passare del tempo, Bella non ebbe più paura, poiché era sempre gentile con lei. Uscire all'esterno del palazzo era molto divertente per la Bella. Era molto bello stare in giardino. C'erano le fontane, gli aranci, i mirti e gli uccelli. La bestia talvolta suonava il pianoforte per la Bella e rimaneva a parlare a lungo con lei. Le cose proseguirono così per molto tempo, finché Bella cominciò a desiderare di vedere suo padre e le sue sorelle. Vedendo il suo sguardo molto triste, la bestia le chiese: Qual è il problema, cara? Hai uno sguardo così triste oggi. Desidero vedere di nuovo mio padre. Per favore, fatemi andare solo per una settimana. Prometto di tornare da voi. Oh, Bella, è forse perché mi odi e vuoi fuggire? No, non è così. Io non vi odio. E mi dispiacerà lasciarvi per qualche tempo. Non posso rifiutare quello che mi chiedi, anche se mi costasse la vita. Ma se non ritorni, come promesso, mi troverai morto. Oh, caro, non lascerò mai che questo accada. Sei stato sempre gentile con me. Non sarà necessario prendere nessuna carrozza per il viaggio. Metti al dito questo anello prima di dormire e dopo un sonno tranquillo al risveglio ti troverai a casa di tuo padre. Oh, davvero? Oh, grazie, grazie mille. E quando vorrai tornare, sfila questo anello dal dito e sarai riportata nuovamente al palazzo. Buonanotte, Bella. Mi mancherai molto. Buonanotte, caro. E grazie per la vostra bontà. Sì, basta che ricordi la promessa. Sì, sì, certamente. Non appena la bestia andò via, Bella si affrettò a dormire. La mattina dopo si trovò nel letto della sua casa. Le sue sorelle erano stupite che fosse apparsa magicamente. Il padre l'abbracciò forte e si mise a piangere dalla felicità. Oh, Bella, ero così preoccupato per te. Mi sei mancata molto, cara. Anche tu mi sei mancato, papà. Bella descrisse a suo padre la bontà della bestia. Dopo un'attenta riflessione le disse: Mi stai dicendo che la bestia ti ama teneramente e quindi merita il tuo amore e gratitudine per la sua dolcezza e gentilezza. Credo che dovresti ricompensarlo facendo come vuole, nonostante il suo aspetto di bestia. Una settimana volò e Bella si dimenticò di tornare al castello. Finché una notte sognò la bestia, stesa per terra, morente. Oh mio Dio! Bella fu così spaventata dal sogno che la sera stessa disse addio al padre e le sue sorelle. Appena si mise a letto, si tolse l'anello. Si addormentò immediatamente. E al mattino si svegliò nel palazzo della bestia. Si precipitò dove aveva visto la bestia morente. La bestia era ancora lì e non si muoveva. Oh mio Dio, sei davvero morto! È colpa mia che ti ho lasciato, caro! Ma poi, guardandolo ancora una volta, si rese conto che respirava ancora. Andò subito a prendere un po' d'acqua per spruzzarla sul viso e con sua grande gioia la bestia cominciò a rinvenire. Oh, caro, che paura! Non mi sono accorta quanto ti amo fino a poco fa, quando temevo che fosse troppo tardi per salvarti. Puoi davvero amare una brutta creatura come sono io? Sì, perché hai un cuore gentile e delicato. Ed è più di quanto possa chiedere della vita. Bella, vuoi sposarmi? Sì, la voglio. Non appena Bella rispose, la bestia venne circondata da una luce accecante, galleggiò in aria e discese di nuovo come un principe azzurro. Oh mio Dio, e tu sei il principe apparso nel mio sogno. Io ti ho sempre sognato. Ah, Bella, mia dolce Bella. Grazie per avermi liberato da una terribile maledizione. Una strega che uccisi in battaglia, prima di morire mi mandò una maledizione. Disse che nessuno avrebbe mai potuto amarmi e mi trasformò in una terribile bestia. Ma il tuo vero amore ha cancellato la maledizione. Oh, non riesco a credere a quello che sta accadendo. Sto sognando. La bestia la pizzicò dolcemente. E non è un sogno. Tu sei il mio vero principe. Il mio vero amore. Ora non dobbiamo più aspettare. Andiamo a casa tua per preparare con la tua famiglia il nostro ballo di nozze. E così avvenne. Il matrimonio fu celebrato il giorno dopo con grande sfarzo. Alla fine la gentilezza aveva conquistato Bella. La bellezza non è quella di un bel viso, ma è possedere una bella mente, un cuore buono, ma soprattutto una bella anima. Bella e il principe vissero felici e contenti.